tuoi genitori hanno anche figli normali? Signor, sì, signore! Ti saranno pentiti di averti fatto! Ma che cazzo vuoi? Tu devi farmi cremare. Che devo fare? Anzi, odio un po' tutti, a dir la verità. Minaccia come Mina e come Ciaccia! Si unì ai peggiori che trovò. Una banda di ladri di bestiame. Non curante del tanfo del bestiame. Sono stufo di stare nella merda. Ci vediamo domani. Se no qui ci resti per sempre. Mi piace qui. Le infermiere vi fanno il bidet a letto.